Non l'ho detto della del vice sindaco di voler accoppiarlo. Pensavo ci fosse qualcos'altro. No, io non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, domande, non so, valutazioni. Qui altro adesso con la in Val di Susa com'è la situazione? Cioè proprio a livello cantieristico, a livello vostro di movimento, di resistenza. Com'è il punto della situazione? Allora, dal punto di vista cantieristico, loro hanno preso l'area che si è poi espansa, mi sembra, in due colpi, l'ultimo dei quali è stata la vicenda di Luca e quello che ne è conseguito. Tutto è stato devastato sostanzialmente, terra spianata, poi hanno fatto un po' di... per facilitare il movimento dei mezzi. E hanno costruito sostanzialmente l'impalcatura dell'inizio della perforazione di questo tunnel che devono fare, che non sarebbe il tunnel dove passerebbe il treno, ma un tunnel esplorativo secondario di servizio. Ora, lì per andare avanti stanno aspettando l'arrivo di questa mega trivella che, da quel che si dice, è impegnata in Brasile e dovrebbe arrivare, e penso a pezzi perché deve essere una roba abbastanza grossa, poi dovrebbe iniziare questo lavoro qua e non si sa bene quando arriva sta cosa, nel senso che ci si poteva aspettare nella primavera, si diceva aspetteranno le elezioni per vedere. Ora sicuramente il quadro politico non è semplice anche per chi spinge la realizzazione del TAV. L'estate, non lo so, qua andiamo nel regno delle previsioni, non ha senso, per cui quello è il passaggio ulteriore effettivo che loro devono fare. Dal punto di vista del movimento, diciamo che dopo i punti alti che ci sono stati nell'estate del 2011, quello di cui si parlava prima, la Libera Repubblica della Maddalena, lo sgombero e il 3 luglio, sostanzialmente c'era stata un'estate piuttosto intensa di mobilitazione intorno, diciamo, cercando di far pressione da anni comunque di entrare nel cantiere. Da lì, diciamo, sicuramente quel momento ha rappresentato per buona parte anche un po' uno shock, no? In una parte del movimento, secondo me, perché si arrivava dal 2005 dove il movimento aveva vinto letteralmente spedendoli via, no? Perché poi, diciamo, la realpolitik di Berlusconi in quel momento ha detto ci sono le elezioni alla porta, se lo gestirà chi vince queste elezioni, e da lì sostanzialmente avevano dovuto impiegare 5 anni per convincere senza riuscirsi e poi arrivare a questa nuova fase. Quindi quello sicuramente aveva determinato un... perché lì loro avevano preso il territorio e l'avevano tenuto, per cui da lì in avanti sostanzialmente c'è stato, direi, un dibattito interno al movimento tra come fare, nel senso che lì ovviamente ti confrontavi con un presidio militare di una certa forza, per cui avevi tra chi diceva che bisognava continuare a fare la pressione al cantiere, chi diceva che bisognava bloccare altri punti della valle e chi diceva che bisognava allargare la questione in termini di consenso, eccetera, fuori dal territorio, cose che secondo me con differenti sono tutte e tre un po' vere. Noi per esempio ci siamo sempre fatti carico abbastanza di sostenere la necessità di continuare a far pressioni su quel cantiere, sapendo che per ragioni credo anche fisiologiche dei movimenti il 3 luglio non ce l'hai alla portata tutti i giorni. Si sono successi vari momenti in questi 2 anni dove alcuni che sono riusciti meglio, altri meno. In tanti momenti c'è stato un livello di risposta militare, insomma, abbastanza forte, nel senso che comunque tiravano abbastanza dritto questi lacrimogeni. C'è un ragazzo che ha rischiato di perdere un orecchio, un altro compagno noto, insomma, è stata abbastanza... Però, diciamo, questa pratica si è mantenuta, no? Poi ci sono ovviamente state delle vicende che hanno rimesso in gioco, cioè la vicenda di Luca è chiaro che ha rimesso in gioco un livello che si è giocato sull'autostrada, eccetera. Adesso sicuramente questa cosa delle elezioni piaccia o meno, si possono fare le considerazioni che vogliono su questo. La Valle ha votato in massa i 5 Stelle, come l'aveva già votato in massa nel 2008. Secondo il nostro giudizio, in termini abbastanza strumentali, cioè perché Notav e dichiaratamente Notav può essere un aiuto. Piaccia o meno, questa cosa riapre un po' i giochi, perché comunque nella controparte complica, diciamo, l'agibilità di manovra. E sicuramente danno anche molto fastidio certi ripensamenti che ci sono dentro il PD, che di fatto io credo che dal punto di vista dell'istituzione è sicuramente il soggetto politico che più di tutti sostiene il TAV in termini quasi ideologici di principio. Vuoi perché la città di Torino è da più di un decennio sotto questa cosa qua, vuoi perché il PD ha gli interessi di un certo tipo con la Lega Coop, la CFC eccetera, e credo anche per anche dei vizi di eredità politica che arrivano dall'industrialismo del PC e tutta questa cosa qua. Cioè lì nel PD e nel particolare nel PD piemontese si vede particolarmente come dire, la dimensione di principio. Cioè qua non dobbiamo cedere, perché non possiamo dare la vinta a questi quattro cialtroni pezzenti che non sono neanche, diciamo, nella politica accettabile. Per me questa cosa è di un'evidenza. Poi magari 5 miliardi di debito già al Comune di Torino, e loro in questo momento sono molto in difficoltà su quello. Sul resto a me sembra che adesso sia un po' questa dimensione di stallo, no? Credo che la controparte, no, come si diceva prima, cioè non molleranno, perché ammettere una sconfitta del genere è pesante, perché comunque gli interessi di varie componenti ci sono, per cui come aveva detto bene Perino in un'occasione, come le guerre, se uno Stato le vuole fare trova i soldi per farle, per cui insomma questa cosa qua, non solo Perino, penso l'abbiano detto anche gli altri, insomma è abbastanza evidente che vanno avanti. Credo che il movimento negli ultimi due anni si è posto in termini, l'aveva già fatto da sempre in un certo qual modo, per esempio il discorso, il notav non riguarda solo la Valsusa, ma perché è come dire, un'appropriazione, uno spreco di denaro pubblico dove tu cittadino paghi con le tue tasse una roba che fa gli interessi di pochi, di cui non c'è bisogno. Però devo dire che almeno la nostra impressione è che proprio dal 2011 in avanti, anche con diciamo la conquista di una visibilità nazionale, no? Nuova del movimento, che è tornata alla ribalta per le ovvie ragioni, anche la dimensione della crisi ha permesso a Notav di uscire dal territorio con un discorso che inizia a trovare delle orecchie che lo sanno sentire. Questa cosa qua molto semplice del dire un centimetro di TAV corrisponde a tot in meno alla sanità, alla scuola, è una cosa che fa presa, e che io credo che più andremo avanti più farà presa. Ovviamente tutto questo deve essere messo in relazione con quelle che sono le armi della controparte, perché comunque c'è un muro di gomma. Cioè il Notav comunque la sua visibilità se l'è conquistata in due modi: diventando un problema di ordine pubblico, quindi quello credo che sia uno strategico compito che il movimento deve continuare a avere nei suoi momenti forti, e andando in giro con momenti come questo. Ma non c'è altro, non c'è. Il movimento Notav quando sfondava il muro di gomma mediatico perché diventava un problema di ordine pubblico, se no non gli è mai stato concesso. Cioè, se io ricordo, in 10 anni ci sono state 4-5 occasioni di trasmissioni televisive dove venivano invitati i gente della Valle a parlare delle buone ragioni del no, e puntualmente smerdavano gli esperti della controparte, ma letteralmente. Cioè il livello di conoscenza è molto più superiore, è molto superiore nel cittadino medio della Valsusa rispetto a gente pagata per spiegare che invece è necessario per questo e per quello. Per cui credo che il continuare a uscire dal territorio con queste istanze sia necessario, però allo stesso tempo sia necessario giocare tutta la partita che è possibile fisicamente, mettendo i bastoni fra le ruote, con i modi che si troverà, che si inventerà, eccetera eccetera. Credo che in questo momento, come congiuntura di questioni, sia un momento favorevole. Comunque riapre delle delle possibilità, che fa sì che ci sono delle orecchie in più che sanno sentire quello che il movimento dice. La questione credo che sia più aperta che mai, ma con ancora più possibilità, secondo me.